Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Lo sapete che sembra proprio che ci sia la ripresa? Continuano a uscire dati positivi sull'industria, sulla manifattura e in generale sull'andamento dell'economia. Prima questi dati positivi erano piccoli e incerti, adesso sembrano sempre più sicuri. Colpiscono in particolar modo i dati Istat sul fatturato e gli ordinativi dei vari settori. In particolar modo parliamo dei dati relativi a marzo 2017 paragonato a marzo 2016. Ebbene, i dati sull'industria sono impressionanti. La crescita è più 7,3%. Sul petrolio più 22,6%, sui prodotti chimici più 10,9%, sui farmaceutici più 4,8%, su metallurgia più 14,3%, sulle industrie manifatturiere più 7,4%, macchinari e apparecchi più 8,7%, mezzi di trasporto più 2,8%. Invece sono usciti qualche settimana fa i dati su robot e macchine utensili nel primo trimestre del 2017 e parliamo di un più 13%. Inoltre su tutto il segmento dei macchinari c'è una crescita spaventosa, più 60% macchine per la ceramica, più 11% macchine per la grafica, più 14% macchine per il marmo, più 16% meccanotessile. E ovviamente se si vendono più macchine ciò avviene perché le industrie pensano di lavorare di più e, come noi diciamo da 2 anni, la manifattura tira tutto il resto. E allora che cosa significa tutto questo? Ne parliamo con l'ospite della puntata di oggi, che è un amico di questa trasmissione. Adesso ho il piacere di annunciarvi il grandissimo economista industriale professor Patrizio Bianchi. Buongiorno Patrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per i tamburi. Ormai quando parli tu, anzi quando parla lei, perché siamo in trasmissione, quando parla lei aumentano gli indici d'ascolto. Allora, tutti questi dati qui come li interpretiamo? Ma li interpretiamo così, che a forza di parlare di industria 4.0 questa sta arrivando sul serio e sta privilegiando soprattutto quelle imprese, e sono quelle italiane, che in questi anni hanno lavorato sulle macchine intelligenti, dove l'intelligenza delle macchine è data dalle persone che le fanno, ma soprattutto dalla capacità di mettere insieme gli integratori. C'è un segnale di ripresa che è molto selettivo in Europa, molto selettivo in America, molto selettivo da molte parti. C'è una ripresa delle aspettative, ma soprattutto è venuta a maturazione quell'idea di una manifattura che traina lo sviluppo. Beh, in effetti la manifattura era rimasta nell'ombra del dibattito politico, nell'ombra dei media, diciamo fino al 2016. Sembrava che il settore principale, quello che dà da mangiare a tutti noi, non esistesse. E sembrava che tutto ruotasse intorno ad altro. Poi con Industria 4.0 finalmente, forse dopo 20 anni o dopo 30 anni, si è ricominciato a parlare di manifattura. Beh sì, perché abbiamo dato un nome alle cose, abbiamo trovato un nome sicuramente convenzionale, però abbiamo dato un nome ad un fenomeno che era questa idea che abbiamo detto tante volte: non soltanto internet, non è soltanto la digitalizzazione, ma la capacità di fare dei prodotti personalizzati in grande dimensione, cioè la capacità di coniugare il massimo dell'artigianato con il massimo della dimensione industriale in una visione che però si sposta su tutto il mondo. È questo che fa la differenza ed è anche questo che sta premiando molte delle imprese italiane che fanno macchine, cioè l'idea di aver sempre creduto che le macchine servono. Cioè sono strutture di servizio, non è la tecnologia di per sé. Usiamo tutte le tecnologie, magari anche inventate da altri, ma che però noi riusciamo a personalizzare. Certamente. Senta, ma in pratica la ripresa c'è, perché tutti questi segnali sono inequivocabili, quindi io come ho detto in apertura di trasmissione, insomma... Sì, a forza di contarla la ripresa c'è. La ripresa c'è, essendo una ripresa che si porta dietro un cambiamento vero, un cambiamento strutturale, è un cambiamento che ha messo in evidenza anche le diverse velocità. Quando si va da A a B, non è che questa, su questa linea tutti si muovono nello stesso momento. Andando da A a B ci sono quelli più veloci e quelli più lenti, dove il lento magari è anche quello che ha preso l'ultima tecnologia e si è inchiodato su quella tecnologia e quindi non può spostarla. Però che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in questa fase hai dentro tutte le robe del passato e hai dentro anche però molte attese del futuro, con un rischio che io palpo tutti i giorni, che da una parte si dice c'è la disoccupazione giovanile, lo sappiamo, e dall'altra parte molte imprese che hanno anche investito e sono venute in Italia credendo prima di noi a questa ripresa e a queste competenze italiane, oggi mi dicono ma non abbiamo i periti industriali. Ecco, questo diventa il vero limite. Adesso io vorrei lanciare una scheda con tutti i dati che indicano la ripresa industriale, e non sono pochi, sentite qua. Da qualche mese ci sono sempre più segni, talvolta timidi, di ripresa industriale. I dati di marzo, però, non lasciano più spazio a dubbi. Siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi, non c'è dubbio, ma cresciamo senza se e senza ma. Da qualche giorno, per esempio, l'Istat ha rilasciato i dati sui fatturati di marzo 2017. Ebbene, rispetto allo stesso mese del 2016, l'industria cresce del 7,2%, con una notevole spinta da parte del mercato interno, che è aumentato del 9,25%. Fra i sottocomparti industriali si segnala la crescita della metallurgia, più 14,3%, della chimica, più 10,9%, e del farma, più 4,6%. Particolarmente interessante il dato sui macchinari, spinti dagli sgravi fiscali del pacchetto Industry 4.0 del ministro Carlo Calenda. I fatturati dei macchinari, fra i quali ci sono anche i robot, sono aumentati dell'8,7%, ma gli ordini sono saliti addirittura del 18,3%. Robot e macchine utensili sono un indicatore importante, non tanto per il comparto che se ne avvantaggia in primo luogo, che è comunque un punto di forza del Made in Italy, ma soprattutto perché mostrano le aspettative positive delle imprese che li utilizzano per nuove produzioni. UCIMU, l'associazione di settore delle macchine utensili e dei robot, ogni trimestre elabora l'indice delle commesse interne. Ebbene, per il primo trimestre 2017 l'indice si è posizionato a quota 236, con un incremento del 22,2% rispetto al trimestre precedente. Si tratta del valore più alto dal 2010 a oggi, pari al triplo di quello del 2013. Comunque nel 2016 le commesse interne di robot e macchine utensili sono cresciute del 32%. Le aspettative delle imprese, insomma, sono positive. Infatti nel mese di aprile l'indice Istat sulla fiducia delle imprese ha ripreso a crescere, posizionandosi a quota 107,4 punti, in netto incremento rispetto ai 105,1 punti di marzo e ai 100,8 punti di dicembre 2016. Coerente con tutto ciò è anche la crescita delle esportazioni extra Unione Europea, che secondo l'Istat nello scorso marzo è aumentata del 15,4%, il quinto dato positivo consecutivo e il secondo a due cifre dopo lo scorso gennaio. Rieccoci in linea con l'economista industriale Patrizio Bianchi, parlavamo di ripresa industriale e avete appena sentito una scheda su questo. Ma la mia domanda è, professor Bianchi, tutti questi numeri sull'aumento delle macchine, quanto dipendono dal cosiddetto pacchetto Calenda e quanto invece sono legati alla ripresa in se stessa? Ma diciamo che le due cose si sono combinate. Diciamo che c'è una ripresa che ormai stava maturando da tempo, ma soprattutto c'era il bisogno di cambiare modelli organizzativi, cioè il bisogno di cambiare non la singola macchina, ma proprio il modello di business, il modello di organizzazione e quindi anche la struttura delle macchine e di produzione. Questo ha incontrato sicuramente da tempo una domanda che era latente e che si sta concretizzando finalmente, e devo dire merito di Calenda che ha colto questo dato e lo ha enfatizzato. Io non credo che la ripresa c'è perché ci sono degli incentivi, però sicuramente gli incentivi hanno reso evidente che c'è la ripresa. Scusi il gioco di parole. Ecco, per questi incentivi fiscali sono molto importanti. C'è chi dice che arrivano a coprirti quasi il 60% del nuovo macchinario. La richiesta è di prolungarli per un altro anno. Però è evidente che non possono essere infiniti, perché se no, se l'impresa sa che lo può fare sempre, lo rimanda. Ah, certo, sì, sì. Ma è la trappola degli incentivi. Gli incentivi quando cominciano a funzionare vengono prolungati, però se tu li prolunghi all'infinito la gente lo fa all'ultimo giorno. No, anche in questo caso io credo che sia importante. È come i saldi, funzionano perché hanno una scadenza nei negozi. Ma assolutamente, tant'è vero che le firme, le grandi firme, ormai differenziano nettamente i negozi in cui fanno la prima linea e i negozi outlet in cui poi fanno gli sconti, perché altrimenti si mangiano uno sull'altro. Tante volte non è nemmeno la stessa roba. Ma assolutamente, è il season dell'anno, è la stagione dell'anno precedente. Però che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo essere molto chiari, noi dobbiamo dare a tutti l'idea che questo è il momento, quindi non si possono prolungare all'infinito. E infatti incentivi da renderli strutturali a me sembra una follia. No, perché altrimenti dai un segnale molto brutto, cioè dai l'idea che tutto è piatto. Qua non è tutto piatto, qua c'è un momento. Certamente. Comunque dobbiamo interromperci un attimo per avvisi sul traffico e varie ed eventuali. Restate con noi, fra qualche minuto ci siamo di nuovo. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Fabbrica 2.4. Buongiorno di nuovo, buon sabato per chi si è collegato adesso. Siamo ancora in linea col professor Patrizio Bianchi, economista industriale, e oggi parliamo di tutti questi numeri che indicano la via verso la ripresa. Parlavamo degli incentivi del pacchetto Calenda, dei bonus fiscali e di quanto abbiano contribuito, e si diceva appunto che forse si possono prolungare per un secondo anno, anzi è opportuno che vengano prolungati per un secondo anno, ma non possono diventare strutturali, se no sarebbero controproducenti, no professore? Assolutamente. Assolutamente, la comunicazione da dare a tutti è che guardate che c'è un momento, c'è una finestra importante in cui bisogna che non soltanto sia chiaro che è la manifattura che fa crescere un paese, e secondo, bisogna essere ben chiaro che la manifattura si sta trasformando. Questa trasformazione della manifattura a livello mondiale coglie la nostra struttura industriale in un momento positivo, perché noi sappiamo fare le macchine, noi sappiamo fare come metterle in fila e possiamo diventare ovviamente i grandi fornitori di industria 4.0 a livello europeo e mondiale. Ecco, c'è però quello che manca secondo me, professore, è una visione. Perché l'idea del pacchetto Calenda è quello di essere neutro, però i grandi stati industriali, e qui penso agli Stati Uniti, alla Germania, alla Francia, ma anche alle potenze asiatiche, non sono neutri. Hanno una visione precisa di politica industriale relativa a alcuni settori, ad alcune azioni e soprattutto politica industriale condotta con la conoscenza, il che non vuol dire essere parziali o dare degli aiuti economici. Amici, vuol dire avere una visione. E lei come la vede, professore? No, io sono assolutamente convinto di questo. Guarda, io sono convinto, l'abbiamo detto tante volte, che politica industriale non sono sussidi. Sussidi possono essere strumenti, segnali più che strumenti, segnali importanti. La visione che noi dobbiamo avere è molto chiara. La globalizzazione, quindi l'estensione a livello mondiale di mercati che più sono grandi e più si segmentano, ha fatto sì che c'è stata anche una grande trasformazione proprio nel concetto di industria. La chiave della nuova industria è che lei deve produrre su grandissimi numeri prodotti però sempre più personalizzati. Questo vale per la farmaceutica, vale per la meccanica, vale persino per le automobili. Sulla base di questo noi abbiamo un vantaggio competitivo come Italia. Non dimentichiamolo, di fatto questo essere gente di officina e di bottega è la nostra storia. Bello gente di officina e di bottega, potrebbe essere il titolo di un libro. Ma magari lo facciamo assieme. Io vorrei tanto. Però... Gente di officina e di bottega fa sì che noi abbiamo un'industria delle macchine di produzione che è assolutamente all'avanguardia a livello mondiale, però ci dobbiamo convincere noi stessi. Noi non siamo abbastanza convinti che il nostro ruolo può essere questo. Questa è la visione. Noi possiamo essere coloro che danno intelligenza ai sistemi produttivi e noi lo possiamo fare. Certamente. Ecco, ma quindi la seconda fase, il pacchetto Calenda 2, secondo lei come dovrebbe essere fatto? Guardi, bisogna mettere insieme i pezzi. Io credo che la cosa più complicata oggi per la nostra impresa che sta crescendo è trovare le persone. È un paradosso, in un paese in cui abbiamo ancora tanti giovani disoccupati, le imprese che stanno crescendo non trovano periti, non trovano ingegneri, ma non trovano neanche letterati. Cioè bisogna che noi acceleriamo non solo sulla cosa importante che stiamo facendo da diverse parti delle scuole professionali e tecniche, ma nel dare a tutte le scuole, compresi i licei, comprese le università, che sono in questo, secondo me, la parte più arretrata, una idea di una convergenza di sistema. Cioè l'idea che tutte queste professionalità devono essere insieme col nostro sistema di imprese un luogo educativo perpetuo. Ecco, io sento dire tanto dagli imprenditori che ci vorrebbero più periti, più gente che va negli istituti tecnici. Il tema però è rendere questa cosa appetibile, perché quando ho studiato io ho 45 anni, quindi parliamo di un quarto di secolo fa, l'istituto tecnico era quello dei poveri o quello di chi non aveva voglia di studiare e veniva avviato al lavoro. E infatti ricordo che mia mamma diceva: guarda che se ti bocciano, io ero lo scientifico, beh, se ti bocciano poi finisci all'istituto tecnico, eh? E allora tutti aspirano ad avere il figlio che fa il liceo scientifico, il liceo classico, poi la laurea e la carriera. Come fai a dire a uno che è una bella cosa fare l'istituto tecnico? Due cose diverse. Questa non è soltanto di quando lei era giovane, ma questa è la matrice di fondo del sistema educativo italiano. La legge Casati 1859, che è quella che fonda il nostro sistema, divide nettamente i licei, che sono quelli che devono avere il giudizio, dagli istituti tecnici, che sono quelli che devono usare le mani. Oggi siamo in un'epoca in cui molta dell'intelligenza è nelle mani, e allora il problema è che, come dicevo prima, non è soltanto una rimotivazione verso le scuole tecniche e professionali. Quelle bisogna farle crescere. Lei sa che la grandezza del sistema tedesco, perché lei ha avuto due sistemi paralleli con una scuola tecnica, le famose Fachschule, che sono di grandissimo livello e che sono di grandissima qualità. Quindi su questo bisogna investire. Però la cosa che sto dicendo io è questa: prenda questo discorso oggi delle macchine, no? Dentro alle scuole non abbiamo ovviamente le stesse macchine che abbiamo nelle imprese, per forza, perché ovviamente le scuole hanno dei tempi di aggiustamento su 3-5 anni e le imprese non se lo possono permettere. E certo. Allora, prendiamo questo discorso alternanza scuola-lavoro, anziché vederlo in termini di crediti, in termini di ordine pubblico delle scuole, vediamo invece le opportunità che le stesse imprese devono cogliere nel diventare loro stesse il luogo in cui, attraendo le scuole, compresi i licei, fanno diventare le loro stesse imprese il luogo della nuova educazione. Cioè, quando lei mi dice cos'è la visione è un sistema paese, o almeno territori, sistemi territoriali che diventano e impastano di più la manifattura di punta con le scuole, e dando nella forma, nella sostanza, questa idea di un'alternanza scuola-lavoro, la forma della integrazione scuola-lavoro, perché il problema delle competenze... Sì, vabbè, però a parte il fatto delle competenze, la Germania investe in ricerca e sviluppo 3-4 volte le cifre che investiamo noi, e l'investimento in ricerca e sviluppo è la via principale per fare politica industriale, perché il tema è che le aziende fanno ricerca applicativa, non possono fare una ricerca di tipo generale, perché devono rispondere della redditività di ogni euro che spendono. Quel tipo di ricerca la può fare solo lo Stato. Quindi politica industriale con la ricerca, uno. Due, anche avere in mente certe direzioni. Per dire, la Merkel ha chiaramente indicato nella sua strategia di politica industriale di qualche anno fa che mirava alla leadership della Germania nel settore dei macchinari per le energie rinnovabili, e come sistema paese si intendeva proprio arrivare a creare un'industria delle energie rinnovabili, cosa che poi è riuscita. Se ci fosse una simile dichiarazione di intenti da noi, tutti griderebbero allo scandalo del dirigismo. Ma guardi, mi faccio fare due passaggi indietro. Ricerca è un pezzo, e io sono assolutamente convinto che il pezzo di ricerca è fondamentale. C'è un pezzo di ricerca, quella che si chiamava di base, che in Italia trova università che in termini di rapporto investimento pubblico sono molto produttive, sono estremamente produttive. E abbiamo un sistema ricerca nazionale che però va messo in fila e va riordinato. E va anche finanziato, perché gli danno veramente quattro soldi, sono poveri. Rispetto al sistema tedesco, le ricordo che ancora una volta il sistema tedesco, così come per la formazione delle persone, ha fatto delle strutture intermedie, le Fachschule, sì, ha fatto una struttura intermedia che si chiama Fraunhofer, che è quello di incrocio. Quindi non basta finanziare, c'è un problema di ordinamenti, di strutture della incrocio ricerca, delle competenze della ricerca con quelle dell'industria. Assolutamente. E poi ci sono gli istituti Max Planck che invece fanno ricerca pura. Certo, ma ovviamente, però guardi che partendo dai nostri istituti nazionali di ricerca, dal CNR agli altri, dall'altra parte, focalizzando in alcuni argomenti chiave. Lei sa che ad esempio mi sto spendendo moltissimo facendo io il sarto delle, perché la politica industriale oggi è un mestiere da sarti, non è un mestiere da grande massa, cioè si fa a mano, si prende, sto mettendo in fila tutti i pezzi che riguardano Big Data. Io credo che Big Data sia la chiave di volta del nuovo sistema produttivo. Noi stiamo facendo, io sto facendo convergere tutti i sistemi legati da una parte ai sistemi di impresa e dall'altra parte ai sistemi di grande... Ecco, arriviamo dunque, prof, che ci manca pochissimo tempo. Sì. Allora, lei sta facendo questo sforzo, perché ce lo dice? Perché, ad esempio, Big Data è una delle chiavi di volta della nuova industria. E noi in Italia abbiamo su questo il sistema. Ma a parte lei in Emilia-Romagna, di Big Data a livello di politica industriale non se ne parla. Si parla solo di maggiore connettività in fibra e banda larga. Lei mi ha domandato una visione, io le sto dando una visione. Questa visione non c'è, questo è importante. Io la sto proponendo però, alla domanda qual è una visione, io le sto dicendo cos'è la visione. Ma infatti lei ha ragione. Per il paese. Dopodiché, alla domanda quali sono i punti chiave, la mia risposta è molto netta. Benissimo le infrastrutturazioni, però attenzione che le infrastrutturazioni, cioè la banda larga, deve connettere, come dice la parola stessa, delle cose. La connessione delle cose è sostanzialmente però il grande sistema che sviluppa e gestisce i numeri, che è la chiave del nuovo sistema, diciamo, di industria 4.0 e da lì in avanti, e le loro applicazioni. Allora, le applicazioni è materia di bottega, la vecchia bottega artigianale artistica. D'altra parte ci vuole l'officina. Guardi che l'Europa su questo ha oggi una grande attenzione, ma paradossalmente noi siamo nella condizione di avere un vantaggio competitivo, ed è il punto che unisce quello che diceva lei, la ricerca e il sistema industriale. Ma ha chiesto una visione. E quindi una visione per la politica industriale vuol dire unire la ricerca e il sistema industriale, vuol dire infrastrutturare il paese per i dati, ma anche creare dei sistemi, dei nodi lungo questi dati per poterli raccogliere e catalogare. Non bastano la fibra, ci vogliono anche dei data center e soprattutto un sistema intelligente di organizzazione della conoscenza che si mette in questi dati. L'ho detta bene per chiudere? La detta benissimo, ci vuole un'intelligenza di sistema, per un'intelligenza di sistema bisogna anche di luoghi fisici in questo, in cui questo si addensa. Ecco, quasi dobbiamo chiudere, prof. Però tanto ci saranno tanti altri rulli di tamburi. Saluto gli ascoltatori, ci sentiamo domani domenica e saluto il prof Bianchi, grande economista industriale da rullo di tamburi. Saluto a lei e tutti gli ascoltatori. Buon sabato, a presto, grazie, grazie a tutti, professore. A tutti.